Diciamo che se da un lato stiamo vedendo per le strade delle scene appunto novecentesche che richiamano la violenza fascista, nazista, antidemocratica, a supportare questo modello che è già pericoloso di per sé, come la storia insegna, c'è tutto un arsenale di tecnologie che sono molto pervasive, molto potenti, che permettono all'AIS di essere ancora più pericoloso. Tu ne citi alcune, cerchiamo di passarle un po' in rassegna. Tu parli di un software elite. Allora sì, sono diverse, in rassegna ne prendiamo qualcuna, diciamo quella più insomma rappresentativa. Elite sicuramente è una di queste, tra l'altro è stata scoperta da un bellissimo report di 404 Media. Praticamente questo software permette di mappare le aree in cui possono essere trovati potenziali obiettivi per arresti o deportazioni. Come funzionano? Diciamo che gli agenti possono selezionare un singolo individuo oppure un'area sulla mappa, e l'app cioè permette di vedere con un colpo d'occhio dove si concentrano quelli che sono i potenziali target. Non solo, il software può anche essere utilizzato per cercare appunto individui in blocco, fino a 50 persone alla volta. Vengono selezionati attraverso nome, data di nascita, numero identificativo. Altro elemento che è molto particolare è che questo software è realizzato da Palantir. Ora, Palantir è una delle aziende più, diciamo, controverse che vediamo adesso al momento, perché insomma sta diventando un po' dietro le quinte il laboratorio, un arsenale antidemocratico per la sorveglianza di massa, per quello che sta producendo. Tra l'altro pure il nome, no, è evocativo, Palantir, come le sfere del Signore degli Anelli, che è vero che tu vedi, ma puoi anche essere visto da lontano. E praticamente sta fornendo attraverso contratti milionari tecnologie proprio per l'AIS. Sono software che si basano sulla geolocalizzazione attraverso i telefonini, ma anche software per il riconoscimento facciale, giusto? Assolutamente, e questo è il caso di Mobile Fortify, che è un'applicazione che praticamente converte i dispositivi in scanner biometrici in tempo reale. Loro cosa fanno? Ti fermano, ti puntano una fotocamera in faccia, in quel momento i dati vengono confrontati con archivi vast federali, tra l'altro vastissimi, che contengono centinaia di milioni di foto e di impronte insomma digitali, quindi per identificare chiunque in pochissimi secondi. Aggiungo solo su questo elemento che i documenti che sono stati resi pubblici dicono che queste informazioni possono essere conservate nei database governativi fino a 15 anni, quindi non si sa appunto niente su come vengono trattati questi dati, sulla permanenza. Questo è molto pericoloso per la privacy. Sì, esatto, appunto il tema della privacy sembra proprio essere, come dire, non preso in considerazione negli Stati Uniti. Assolutamente, anche perché da un lato appunto abbiamo queste tecnologie sempre più performanti, dall'altro invece Trump che riduce le tutele per l'uso dei dati civili, e chiaramente cioè questi due elementi combinati espongono da un lato alla privacy, che diventa un valore residuale non considerato, e poi si mette chiaramente nelle mani di persone pericolose delle tecnologie che permettono di entrare nella vita di chiunque, di essere spiati, perché poi chiaramente l'altro, diciamo il terzo grande ambito, sono gli spyware zero click. Gli spyware zero click, spyware tra l'altro per esempio di Graphic, che è stata sviluppata dalla società israeliana Paragon, permette di accedere a conversazioni su WhatsApp, Signal, Messenger e Gmail bypassando la crittografia end-to-end, e viene chiamato zero click perché non è necessaria nessuna interazione per installare, diciamo, lo spyware sul telefono. Quindi chi ce l'ha non se ne può accorgere. È successo adesso nell'ultimo anno due giornalisti di Fanpage, il direttore Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino, che sono trovati proprio questo spyware appunto sul telefono, hanno scoperto grazie a una segnalazione di Meta e poi dalla conferma di Citizen Lab. Ma è impossibile, è praticamente impossibile scoprire che si è infettati da questi spyware, che hanno accesso completo al tuo telefono. Una volta installati possono vedere foto, video, messaggi, quindi veramente una sorveglianza capillare e totale. Sì, in quella vicenda fu coinvolto anche Luca Casarini e Mediterranea, sì. Ricordiamo, sì. Esatto. Già nel tuo articolo tu segnali un problema, a parte il problema in sé di questa sorveglianza, che però potrebbe, come dire, essere una sorta di antipasto di quello che poi spetterà a tutto il mondo. Sì, infatti, cioè dobbiamo essere sempre molto attenti a non restringere il problema a livello territoriale, cioè sta succedendo negli Stati Uniti, quindi al di là del buon senso che ci impone, diciamo, di indignarci di fronte a situazioni del genere, c'è anche, diciamo, un po' un valore utilitaristico per cui dovremmo preoccuparci, perché appunto c'è questo vecchio detto, no, che quando l'America starnutisce l'Europa prende il raffreddore, ed è quello che potrebbe tranquillamente succedere, cioè una volta che queste tecnologie diventano la norma, una volta che vengono testate sul campo, una volta che le forze armate possono usarle senza nessun problema, ma cosa ci dice che un giorno, secondo me nemmeno troppo lontano, arriveranno anche da noi in Europa? Sicuramente l'Europa ha una storia legata alla privacy molto più solida rispetto agli Stati Uniti, però in qualche modo è molto probabile che in realtà queste tecnologie, che poi agiscono sempre un po' in modo sotterraneo nell'ombra, arrivino anche a creare nuove forme di controllo da noi. Quindi ecco, bisogna fare molta attenzione.